E te sento quando usci in scala e corse senza guardare. E te vengo tutte i giorni, carerello va a fatica, ma poi non riri più e lontano se ne va. Tutta vita così e da sti papà non morì. Chiama la tua danfona va, canto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiama la tua danfona va, canto l'aria sa da cagnare. Scura per la luna e devi essere per sentire, per te ogni cosa può parlare, ma ti restano le parole e un scuorno a te incontrare. Tanto l'aria s'attacca.